non piangerai farfalone amoroso, notte in giorno girando, e le belle trovando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Non più avrai questi bei bennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quel pennacchino, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfalone amoroso, notte in giorno girando, e le belle tremando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. E le belle tremando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Raguriri, buffa, rabacco, ranno, stacco, stretto, sacco, schioppa in spalla, sciama in fianco, volo trito, usa franco, un francasco, un grandurbante, poi folor, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, i bombardi di canoni, che le palle tutti e toni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quel pennacchino, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti andrai farfalone amoroso, notte in giorno girando, e le belle tremando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle tremando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Cervino alla vittoria, alla gloria militar, cervino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. così può. Ma qui, sentite, sottile la tua, sottile la tua. Libertà, non lo so. Lontano dagli occhi miei un'infidore Thank you. già suonatore, le trombe sentite, i fischier udite, tra tanti traballi dei nostri vassalli. Corriamo, corriamo, le nozze a compir, corriamo, corriamo, le nozze a compir. Pian piano, men fretta, la aspetta. Pian piano, men fretta, un dubbio toglietemi in prie di partir, in prie di partir. Con artere carte con piedi scoprir, con artere carte con piedi scoprir, con artere carte con piedi scoprir, con artere carte con piedi scoprir, con artere carte con piedi scoprir. Conoscete, signor Figaro, questo foglio chi vergo? Non conosco, non conosco. Non conosci? No. Non conosci? No. Non conosci? No. Non conosci? No, no, no. E lo destia, non fa, signor, come? Tu ci intendi, e mo, e mo. Capisci, io non lo so. Cerchi in van difesa e scusa, il tuo ceppo già t'accusa. Vedo ben che vuoi mentir. Mente il ceppo, io già non mento. Il talento aguzzi in vano. Mente il ceppo, io già non mento. Rispondi, niente, niente, dunque accordi, non accordo. Per finirla lietamente, e all'usanza teatrale, una giornata matrimoniale, le faremo rassegnare. Chi direbbe? Sì, tu che dici? Parli ragazzo! Per morte! esso appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ci forse sarà. Questo non che cavallo, io non vidi saltare di là. E pazienza, finiamo questo ballo. Dunque tu salta giù, ma perché il timore ti molla rinchiuso, aspettando quel carro di seppo, ti pettappi un sussurro forduso. Poi gridasse lo scritto biglietto, salta giù al terrore confuso e stravolto mon nervo del piede. Saran queste carte che verrà forgire a me. Sono in trappola, sono in trappola. Finta Valerca, finta Valerca. Dite un po', questo foglio cos'è? Tosto, tosto, notante. Aspettate, sono forse il sommario dei debiti o la lista degli osti. Parlate e tu lascialo. Lasciami e parli. Porto sì, ma se torno a trovare. Vanne, vanne, non temo di te. Porto sì, ma se torno a trovare. Questa è la patente che poc'anzi fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca. Vi manca. Succede, succede. Rispondi. E l'usanza. Su via ti confondi, e l'usanza ti porri il succello. Questo ti porri, porri il cervello. Silenzio, io son qui per giudicar. Io